with those with dirty cold to go, been cold since cold flow. Got a wire to enlarge and I set a fire down below. I hang it up when you say sorry, didn't know. Probably got a year, 10 to go, so let's go. I don't really know how to go slow. Just got done walking in the snow. Goddamn, that motherfucker's cold. Hey, you in the wrong mode, you open and close, you know holes, no go. This whole world's a shit mode, built to the brim like Gitmo. When you think it don't get more low, with limbo to the sticks on flow. All oppression's born of lies, I don't make the rules, I'm just one guy. All due respect and getting spit on's how respect is now defined. Hungry for truth, but you got screwed and drank the cool. Those are dirty cold to go, been cold since cold flow. Got a wire to enlarge and I set a fire down below. I hang it up when you say sorry, didn't know. Probably got a year, 10 to go, so let's go. I don't really know how to go slow. Just got done walking in the snow. Goddamn, that motherfucker's cold. Hey, you in the wrong mode, you open and close, you know holes, no go. This whole world's a shit mode, built to the brim like Gitmo. When you think it don't get more low, with limbo to the sticks on flow. All oppression's born of lies, I don't make the rules, I'm just one guy. All due respect and getting spit on's how respect is now defined. Hungry for truth, but you got screwed and drank the Kool-Aid. There's a line, it ends directly at the edge of a mass grave that's their design. Funny fact about a cage, they're never built for just one group. So when that cage is done with them and you still pour it, come for you. The newest, lowest on the totem, what golly gee you have been used. You have to build a death machine that down the line will kill you too. Pseudo-Christians, y'all are different. Kids in prisons ain't a sin shit. Even one scrap of what Jesus taught connected, you feel different. What a disingenuous way to piss away existence, I don't get it. I say you lost your goddamn minds if y'all possess one to begin with. Just got done walking in the snow. Goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow. Goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow. Goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow. Goddamn that motherfucker cold. Cold, cold, cold. Yeah, ho, gangsta boo, run the jewel. We back on our shit, and it's cold as fuck. The way I see it, you probably free us from the ages 1 to 4. Around the age of 5, you shipped away for your body to be stored. They promise education, but really they give you testing scores. And they predict in prison population by who's scoring the lowest. And usually the lowest scores, the poorest, and they look like me. And every day on the evening news, they feed your fear for free. And you so numb, you watch the cops choke out a man like me. Until my voice goes from a shriek to whisper, I can't breathe. And you sit there in house on couch and watch it on TV. The most you give's a Twitter rant and call it a tragedy. But truly the travesty, you've been robbed of your empathy. Replaced it with apathy, I wish I could magically fast forward the future so then you can face it and see how fucked up it'll be. I promise I'm honest, they coming for you the day after they coming for me. I'm Rita Chomsky, I'm Reed Bukowski, I'm laying low for a week. I said something on behalf of my people and I popped up in WikiLeaks. Thank God that I'm covered, the devil can smother, then you know the evil don't sleep. Dick Gregory told me a couple of secrets before we lay down in his grave. All of us serve the same masters, all of us nothing but slaves. Never forgetting the story of Jesus, the hero was killed by the state. Just got done walking in the snow, goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow, goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow, goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow, goddamn that motherfucker cold. Who really wanna run it with the Jew runners? Go hellfire hot in a new sauna. It's a cold winter, baby, in a cool summer. I suicide bomber in a blue Hummer. It emerge at the side, out of blue zone. Bad news coming Tucson, Tucson. Three beats like a wet dot Jew on them. Got a stroke, bro, crew on them. Move on them. Move on, move on. We be the heroes, the breakers, the chains, and the muscles of locks. You be the suckers supporting the snitches that talk to the cops. This is O-matic, a turning and facing a fuck up on rock. I'm not so sure opportunities knocking is probably the law. Word to the old school tape decks. I get radio Raheem Beats bit. My Nike pin is sacred, similar to the Ghostface bracelet. Frying in a hole, oh no joke. Probably go broke just off smoke. Fuck what we gonna do, not smoke. Get a job, play the role, be a dope. Nah, I'ma do me, arigato. Gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato. First of all, they cheating, huh? Cause that one of them black and the other one white. So if you don't like them, you automatically racist. Eccoci, eccoci online in questo giorno. Che giorno è tra l'altro, Virgi? Venerdì, freddo. Ah, aspetta un secondo che c'hai il riverbero, ma te lo tolgo subito. Perché ho imparato come fare dopo 12 puntate. Fantastico, grazie. Almeno il riverbero, insomma. E dicevo, oggi 12 giugno è anche la nostra 12ª puntata di Notizie Virali. La numerologia è dalle nostre, dalla nostra parte oggi, esatto. Fred. Vorrei avere anche gli effetti, quelli tipo... Falli tu, vai, con la bocca. Non so se le senti... Perfetto. Allora... grande rumorista. Oltre che umorista. Allora, mi viene bene. Comunque... non perdiamo 5 benevoli che i nostri numerosissimi ospiti vogliono sentire anche delle cose interessanti, uscire da queste bocche oltre che i rumori, e andiamo a quello che sarà poi l'argomento di oggi, che è, a me piace molto perché è una chiacchiera, quindi io che amo chiacchierare sono molto soddisfatto di quello che della modalità di oggi e, sì. Oggi, in maniera molto last minute, libera e un po' come ci viene, chiacchiereremo, cercheremo di fare un riassunto di quello che è notizie virali, di quello che è e sarà di quello che è stato notizie virale nelle 11 puntate precedenti, e di iniziare a introdurre poi quello che sarà il nostro obiettivo per le prossime puntate, prima di finalmente prenderci una pausa anche Virgi. Pausa radiofonica, che è quello di cercare di capire effettivamente come stiamo approcciandoci a questo ritorno alla normalità che tanti hanno decantato in questo periodo di lockdown come un qualcosa da evitare assolutamente, ma che sembra che inevitabilmente poi ci troveremo nella stessa merda di prima, per dirla in maniera delicata. Di sì. Tu Virgi, di qualcosa anche tu. Cerco di dire qualcosa di sinistra. Da quando partito... occhio che sei in Italia, quindi non so se ce la fai. Da quando è partito il lockdown, noi abbiamo iniziato un po' per caso, un po' perché comunque è una cosa che ci viene a conoscere. Abbiamo iniziato a condurre questo spazio come uno spazio di approfondimento settimanale di una tematica legata a una dell'attivismo. Quindi guardando in retrospettiva quello che abbiamo fatto nelle scorse 11 puntate, abbiamo conosciuto attivisti che si occupano di clima, attivisti che si occupano di solidarietà in sé per sé, persone che si occupano di arte, persone che si occupano di musica. Abbiamo parlato con alcuni dei protagonisti della protesta di settimana scorsa di Black Lives Matter Italia, abbiamo parlato con Extinction Rebellion, abbiamo parlato con Fridays for Future e con le persone che hanno condotto, diciamo, le proteste anche per quanto riguarda la didattica a distanza. Mi sto dimenticando sicuramente un sacco di cose. Abbiamo parlato con gli amici di Tlon, di bias cognitivi, insomma, quindi diciamo che la nostra è stata un'esplorazione del clima, delle tematiche che sono affiorate anche per via di Covid-19, che è stata una condizione traumatica collettiva che ha esposto alcune parti critiche della società, alcune contraddizioni della società e alcuni punti dolenti del sistema in cui viviamo. In questo momento noi ci troviamo con in mano un sacco di concetti e un sacco di riflessioni che abbiamo fatto nelle scorse settimane e che soprattutto abbiamo imparato, appreso e assorbito dai nostri fantastici ospiti, che ringraziamo perché sono assolutamente super, super illuminanti, e ci troviamo in una posizione di ricerca di un senso e di poter mettere insieme quello che abbiamo appreso e poterlo mettere a servizio di un fatto semplice, cioè che la lotta non si può fermare qua e che la nostra rabbia, il nostro disagio non deve rimanere fino a se stesso, ma questo è il momento giusto perché tutto quello che noi sappiamo e tutto il network con cui siamo a contatto venga messo a sistema e si cerchi di creare una cui affrontare la fase 3, diciamo. assolutamente d'accordo. La, prima di mandare un pezzo, la metto un attimo a terra e poi la tocco piano, che è esattamente quello che hai detto tu. Quindi, dopo tutta un paio di mesi, un periodo in cui ci siamo trovati, anche grazie a Covid-19, a vedere il nostro sistema, diciamo, quali sono i limiti del sistema adesso, e a protestare affinché anche in maniera molto, molto violenta, in alcune insomma in maniera anche giustificata, dicendo no, noi non vogliamo tornare a queste cose qua, non vogliamo tornare a quella normalità piena di discriminazioni, disuguaglianze, eccetera eccetera, ma vogliamo effettivamente impostare un percorso che ci porti poi a migliorare il sistema di cui facciamo parte. Adesso ci ritroviamo in un punto in cui il momento di agire affinché questo percorso sia avviato c'è, e abbiamo visto come su alcune stanze specifiche già delle azioni concrete anche in piazza nelle ultime settimane, parlo della scuola oppure di tutta la polemica razzismo e scusa, di tutta la tematica razzismo, controllo, violenza alla polizia derivata da l'omicidio di George Floyd, le abbiamo viste in piazza. Effettivamente però queste sono solo delle conseguenze istintive, giustissime, però ancora superficiali. Noi vogliamo capire effettivamente come, quali saranno le mosse che ci potranno portare a cambiare davvero il nostro sistema. Per farlo, io in particolare, ma ne discutevo con Virginia e ne discuteremo dopo il pezzo che mandiamo tra poco, mi sono rotto il cazzo di slogan e tanto rumore per nulla, se poi effettivamente non ci organizziamo e non andiamo a fare pressione nei posti giusti perché le cose vengano cambiate davvero. Mando un pezzo dopo averla toccata molto piano e aver lanciato lì la bomba, e ne torniamo a parlare. You're thinking, Father, I went and found the beauty. Rieccoci in linea. Abbiamo appena sentito uno dei miei pezzi preferiti di queste ultime settimane, che è di questa artista che si chiama Zela, scritto ZS Ela, amica di Alice, tra l'altro. Ciao Alice. Ciao Alice. Io mi sono innamorata di lei, di questo pezzo, e quindi vi consiglio di comprare la sua musica, ma più in particolare adesso, aspetta che trovo il nome di questa compilation, che con molta calma, che è una compilation i cui proventi vanno in beneficenza, ed è uscita effettivamente venerdì scorso, si chiama Source of Nurture, e ha dentro dei pezzi di, ad esempio, quello che abbiamo appena sentito, ha dentro Kelsey Lou, ha dentro Maluka, Nidia, insomma anche Loca, che ha suonato tra l'altro a Sairi all'ultima festa che è stata fatta a Macao. Salutiamo anche Sonia Garcia. Salutiamo anche Macao. Salutiamo anche Macao, quindi insomma consigliatissimo acquistare questa compilation in cui c'è anche questo pezzo che avete appena sentito. Mentre andava il pezzo, io e Fred abbiamo avuto una discussione profondissima che è impossibile riportare, perché ovviamente le cose migliori succedono a microfoni spenti, ma ho preso un po' di appunti e ho cercato... non su quello che hai detto tu, ma su quello che stavo pensando io nel frattempo. Pensate. Allora Virgi, prima che tu dici le tue cose, posso agganciarmi allora e riprovare a fare un attimo, visto che tu adesso hai detto una cosa molto intelligente che mi fa riagganciare a quello che io stavo dicendo fuori onda. Perfetto. Ok, mi prendo un attimo questi 2-3 minuti che saranno di più. Però hai detto una cosa molto intelligente adesso. Che abbiamo già affrontato in altre puntate, cioè è consigliato di acquistare della musica di un autore indipendente, insomma, o comunque in modo da supportare quest'artista. Questo è esattamente quello che io mi aspetto quando dico cosa possiamo fare concretamente per cambiare la realtà in cui siamo. Questo non è un esempio concreto, cioè anche in altre puntate dove abbiamo toccato il tema della musica, dell'arte in generale, della situazione degli artisti e della cultura in Italia, abbiamo detto cavolo, per far sì di supportare questo ambito che adesso è in profonda crisi, cioè tutti lo sono, ma diciamo in molta profonda crisi, anche perché sono gli ultimi che possono ripartire, anche se adesso qualcosa si sta sbloccando, però noi possiamo concretamente con la nostra azione andare a acquistare, quindi dare dei soldi e supportare concretamente chi fa della musica il suo lavoro. Questo è esattamente il livello a cui io vorrei portare la discussione, perché tante volte noi ci facciamo anche, ripeto, giustamente coinvolgere come parte attiva o portavoce di una rabbia o un qualcosa che vediamo che non funziona, e lo portiamo anche volentieri nelle piazze cercando di far capire che questo malcontento è legato a un sistema che non funziona più, ma poi non riusciamo mai a fare il passaggio successivo, cioè andare poi a livello istituzionale o a livello legale cambiare effettivamente le cose. Quindi il mio dubbio e la mia frustrazione di questi giorni è legata al fatto che tante volte le proteste che noi portiamo avanti, seppur giuste, si limitano al protestare, si limitano alla parte istintiva, si limitano alla, diciamo, parte più superficiale, quindi di adesione a delle proteste verso qualcosa che non funziona, ma poi non riusciamo più a mandare avanti questo. Lo dico facendo degli esempi concreti, cioè per esempio quello che noi possiamo fare, visto che è stata la cosa più recente a cui ho anche partecipato, oltre che protestare per la violenza della polizia, protestare per i crimini e la mentalità razzista che c'è in Italia profondamente, perché non riusciamo a organizzarci e effettivamente scrivere e portare una proposta concreta a livello istituzionale per, non so, riportare in auge il discorso dello Ius Soli, per, non so, banalmente, creare un'alternativa alla, tra virgolette, legalizzazione dei migranti solo come forza lavoro e non effettivamente come individui con i nostri stessi diritti, i nostri stessi doveri, perché non riusciamo ad andare oltre alla non so, critica alla scuola come luogo in cui adesso non più tutti i ragazzi e le ragazze, gli studenti e studentesse si sentono rappresentati, perché è un modello ormai obsoleto e non riusciamo a portare effettivamente nella discussione pubblica un modello alternativo di scuola che sarebbe molto più efficace per i diversi tipi di intelligenza anche che hanno i ragazzi e le ragazze nell'apprendere. Perché non riusciamo a fare questo passaggio successivo? Io qua, che sono fortemente critico in questi giorni, non riesco a vedere effettivamente, e per questo vorrei discutere sia con te Virgi che con gli ospiti che magari avremo oggi e nelle prossime puntate, come riusciamo a fare questo step 2, cioè come non fermarci alla superficialità e all'istinto che ci viene dentro di protesta perché sentiamo che qualcosa non va, e portarlo poi a una razionalizzazione di un'azione concreta affinché quella cosa cambi, perché, e poi concludo, così facendo mi sembra che restiamo solo a un livello irrazionale e superficiale alla Salvini, cioè adesso specifico questa cosa qua perché sennò dopo ricevo critiche. A parte che hai nominato quello che avevamo detto, che è innominabile, sì. La polizia si poteva nominare, vabbè. C'è ragione, comunque sia, diciamo, restiamo solo figli di quella comunicazione che è esplicitazione di nostre malcontenti, che rispondono però solo a delle esigenze di pancia e non di testa, quindi restiamo sempre a quel livello di ah sì, cavolo, protestiamo perché questa cosa qua fa cagare, e non riusciamo ad andare oltre, che è lo stesso meccanismo con cui vengono coinvolti e aizzati certi cittadini, certi nostri concittadini. Invece a me quello che piacerebbe fare, specie da chi si propone di essere una vera alternativa, andare oltre questo discorso e cercare di non solo reagire di pancia e distinto, ma poi dare un seguito razionale a quello che quell'istinto, quella pancia ci porta ad esprimere. Quindi è questo il mio cruccio più grande, cioè io vorrei capire questo e vorrei farlo insieme appunto a te e ai nostri altri ospiti. Nostri ospiti per ora invisibili. Sì, nostri, oggi. Tu poi mandiamo un pezzo. Allora, io penso che tu stia esprimendo un pensiero che, vabbè, abbiamo sia io che te sviluppato ognuno nella propria testa in questi ultimi mesi, nel senso che la nostra generazione e soprattutto le persone della nostra generazione o della generazione successiva che fanno parte come noi più o meno frequentemente di realtà di movimento, hanno poca se non nessuna fiducia nelle istituzioni, quindi anche tutto il lavoro che noi abbiamo fatto di dialogo e di tentare di costruire una rete, diciamo, a partire dal nostro network personale, è un lavoro parallelo alle istituzioni. Tutto il lavoro di solidarietà dal basso che è stato fatto in questi mesi è un lavoro parallelo alle istituzioni, è un lavoro che va a sopperire a mancanze profondissime delle istituzioni, e soprattutto si inserisce in quella nicchia vuota lasciata da un'incomunicabilità tra attivismo, necessità, tra esigenze, diciamo, che nascono dal basso e la politica di palazzo, che è totalmente sloganistica in questo momento, è una politica di costante propaganda elettorale, per niente programmatica. Si è visto anche nella gestione del virus, il fatto che probabilmente sì, riusciamo a mettere delle pezze, però non c'è un piano, siamo rimasti a parlare di emergenza anche quando l'emergenza non era più tale, no? Questo è sintomatico del fatto che sia stata talmente smantellata la comunicazione tra popolo e istituzioni, che fare dei piani che vadano oltre a certi slogan di facile digeribilità per l'elettorato risulta sempre rischioso, perché risultano sempre delle mosse, no? Che potrebbero essere criticate di qua e di là, e quindi si rischia di perdere il consenso, e questo immobilizza. Noi dobbiamo lavorare dall'altra parte, nel senso, però senza dimenticarci del fatto che il nostro ruolo, in particolare il ruolo di persone come me e te, che si espongono, diciamo, di più sulla parte di comunicazione, è un ruolo di ponte, ed è, per quanto mi riguarda, molto, molto importante. Ho visto questo schema sulle varie figure necessarie per portare avanti, diciamo, un cambiamento, una rivoluzione, tra virgolette, e ci sono anche delle figure che sono di traduzione, di comunicazione, perché per quanto mi riguarda rendere accessibile la politica dei movimenti è il ruolo in cui vedo sia me che te, nel nostro piccolo, riuscire a parlare di certe cose che vengono trattate a volte con un linguaggio abbastanza contorto, che aderisce alla complessità degli argomenti trattati, e portarli invece a essere comprensibili e ad essere visibili, non semplificandoli, ma traducendoli. Semplicemente anche per chi non fa parte strettamente di queste realtà. E un altro punto fondamentale che ho di ragionamento, che sto sviluppando, che non è ancora completamente sviluppato, quindi anche questo è semplicemente uno spunto, che io negli scorsi mesi ho visto un sacco di puntini, cioè di punti che come dei geyser, no, da cui veniva fuori della potenza dal sottosuolo, e penso che un altro dei compiti di chi lavora, la metto giù così, diciamo, nell'industria culturale, sia proprio unire questi puntini. Cioè, io settimana scorsa mi interrogavo riguardo alla questione di Black Lives Matter, e soprattutto alla questione di Black Lives Matter in Italia, sulla mancanza di una narrazione di questa problematica. E quando manca una narrazione, e per narrazione io intendo quello che negli Stati Uniti fa la musica, in generale la musica da sempre, la musica black, e non solo musica, anche i film, i documentari, il fatto che in questi giorni, mentre ci sono queste proteste, le persone consiglino di vedere questo documentario che si chiama 13th, che parla del tredicesimo emendamento, che è girato da Ava DuVernay, una regista che tra l'altro è la stessa regista di When They See Us, una serie molto figa, su, tra l'altro molto pesante, anche da guardare, da digerire, ma nel senso che va vista, perché ti destabilizza. È una serie che parla di 5 ragazzi minorenni che erano stati arrestati e incarcerati anche per tanto tempo, accusati ingiustamente di un crimine che non avevano commesso, semplicemente perché si trovavano nei pressi vagamente di dove era avvenuto questo crimine, e perché la loro pelle non era bianca. Questo film, il documentario 13th di Ava DuVernay, è un documentario che le persone si stanno guardando in piazza in questo momento, e che stanno utilizzando per appoggiare le istanze del movimento e della protesta. E ecco, a noi manca un po' questo pezzo, nel senso, ci manca un pezzo di narrazione popolare in Italia, e penso che compito fondamentale delle persone che si occupano di cultura, come noi, insomma, io ovviamente di più di te, però in ogni caso le persone che trattano tematiche culturali, è proprio unire questi puntini, agevolare la narrazione, perché oltre all'azione, la narrazione è importante perché sostiene l'azione e la rende duratura nel tempo e ci consente di dare dei precedenti. Quando ho sentito parlare Marveli, un mio amico grande, anche bel ragazzo, fondatore di Akimo Kamunda, che è una festa black che c'è qua a Milano, che ha parlato sul carro domenica scorsa e raccontare di come suo padre, alla prima manifestazione che fece in Italia c'erano 50 persone, poi alla seconda ce n'erano 500 e poi fino ad arrivare, no? Passo dopo passo a quello che è successo domenica scorsa. Avere questo tipo di narrazione e raccontarla, averla documentata, documentare quello che succede, anche per quanto riguarda la protesta, per quanto riguarda le realtà di movimento, è importantissimo perché ti consente di non ripartire da zero ogni volta e di collegare dei punti e di darti una continuità che altrimenti rischi di perdere. Nel pensare soltanto all'azione, quindi io rivendico, diciamo, mi interrogo e mi metto sotto torchio tanto in questi giorni su quale debba essere il nostro ruolo in questa fase. Io sono totalmente d'accordo e aggiungo solo una cosa, poi mando un pezzo e poi vediamo se riusciamo a raggiungere un nostro ospite, che hai detto a un certo punto, hai detto un passaggio fondamentale. Tu sei un esempio, secondo me, perché interrogarsi e cercare di capire dove possiamo migliorare credo che sia uno dei punti fondamentali. E poi costruire, tu adesso dicevi costruire una narrazione, io penso proprio che quello che manca in Italia rispetto a, diciamo, piazze più agitate come la Francia, come gli Stati Uniti, ma come anche l'Inghilterra, sia proprio un senso, cioè una comunità critica, una comunità capace di incazzarsi davvero sia fisicamente che però anche mentalmente, razionalmente quando cambiano, quando ci sono delle cose che non vanno. Quindi io invito, certo, molto... Però negli Stati Uniti questa comunità si incazza perché, diciamo, c'è anche un appoggio esterno nel momento in cui... partono delle proteste in piazza, ci sono delle persone che fanno parte dello star system in generale, ma comunque del sistema culturale, del sistema, certo, dei mainstream media, anche mainstream, che appoggiano, ma le appoggiano queste lotte con una ratio, nel senso non lo fanno mettendo un quadrato. Cioè io penso a India Moore, la protagonista di Pose, che in questi giorni sta facendo un lavoro di divulgazione sui suoi social network ed è un'attrice e modella, non parte come attivista, poi è anche attivista, però è in grado di parlare di certe tematiche, ma proprio perché c'è questo tipo di permeabilità tra la cultura pop e la cultura dell'attivismo. A volte in maniera anche un po' cheesy, che può essere nel limite, però poi quando guardi invece qua come manca questa comunicabilità e il fatto che, ad esempio stupido, noi scendiamo in piazza, non nel caso fortunatamente di domenica scorsa, ma in altri casi la musica che ascoltiamo quando scendiamo in piazza è Bella Ciao dei Modena City Ramblers, e quindi io mi dico, cavoli, ma questo è ancora il nostro sistema di riferimenti culturali? Mm-hmm. Cioè è questa ancora la cultura che appoggia i movimenti? Modena City Ramblers, che adesso, tutto il rispetto, ma avranno un'altra età rispetto alle persone che sono in piazza, e magari non dico che non abbia senso la loro musica, ma non ha un senso contemporaneo, ha come un senso cristallizzato in un altro momento del tempo. Per questo io rivendico l'importanza di fare un lavoro culturale e di che sia una cultura anche di larga scala, e non che parli a se stessa, cioè che impari a parlare un linguaggio un po' più universalmente comprensibile. Perché cosa ci ha insegnato Extinction Rebellion, ad esempio, per citare uno delle nostre puntate, una delle discussioni che abbiamo avuto, che quando tu ti rendi trasparente la tua metodologia, rendi trasparente le istanze che porti avanti, ti rendi accessibile, è molto più semplice che tu attragga persone a te. Ed è molto più semplice che le persone si appassionino alla lotta che porti avanti. Più ti rendi inaccessibile, sia nelle terminologie che usi, sia nei riferimenti che utilizzi, più è difficile che persone che non fanno parte già della tua stessa cerchia o che non conosci direttamente si avvicinino alla tua lotta. Quindi è questa la cosa che rivendico. Ultima cosa, prima di mettere la prossima canzone, volevo, a proposito della questione di supportare la musica, uh-huh. Io ci tengo molto, siccome negli ultimi anni ho fatto DJ e tuttora, a caso, faccio dei mix, delle cose, insomma, lavoro con la musica da sempre e compro la musica. Ho visto questo schema che ha pubblicato addirittura un mesetto fa Matt Dryust, che è il compagno di Olly Herndon e anche, cioè, un artista e un pensatore, che illustra la differenza tra musica indipendente e musica interdipendente. Quindi per essere interdipendente il sistema della musica, c'è bisogno che chi ascolta, gli ascoltatori, paghino gli artisti, innanzitutto che paghino e che non scarichino illegalmente. Per quanto io pensi che certe cose che sono considerate illegali siano in realtà giuste, non penso che sia giusto scaricare illegalmente la musica, questo voglio sottolineare. E soprattutto per quanto riguarda la musica indipendente è necessario, e soprattutto in questo momento, pagare i musicisti, e per chi come me fruisce della musica e la utilizza durante DJ set è un atto doveroso pagare la musica che si utilizza e supportare con tutto quello che possiamo gli artisti la cui musica utilizziamo. Quindi ci tengo sempre a dire che le canzoni che noi mettiamo, tranne Musica il resto scompare di Elettro Lamborghini, che non è stata pagata, vabbè, ma credo che Elettro Lamborghini abbia già abbastanza soldi, tutto il resto è musica che io compro e tendenzialmente compro su Bandcamp. Perfetto, mando un pezzo e poi vediamo se abbiamo l'ospite oppure no. Yeah. Adesso siamo tornati in onda. Allora, sempre quando eravamo offline stavamo discutendo di insomma cose relative a questo, come di effettivamente stavamo parlando di fighe, ma no, non è vero, stavamo parlando di cosa effettivamente noi possiamo davvero fare, cioè oltre a dire di fare, e cosa in realtà già qualcosa facciamo, senza star lì a farci pubblicità. Ma detto questo, purtroppo ho appena ricevuto la notizia da Nicola Capone, ex Asilo Fiangé di Napoli, insomma insegnante di storia e filosofia, secondo me genio. Non ci potrà essere questa puntata perché il treno è in ritardo e la persona seduta accanto a lui in treno purtroppo parla a voce alta, quindi cosa che anch'io faccio, però insomma non potrà essere dei nostri, ma sarà con noi venerdì prossimo, si è segnato l'appuntamento, poi insomma lo dico un po' sottovoce perché sono sempre, visto che è una persona con cui vorrei parlare molto, non vorrei poi ci fossero complicazioni. Comunque, quindi proseguiremo per la gioia di tutte e tutte voi, io e Virginia, in questa puntata di discussione e anche di messa a sistema di alcune cose che avevamo in mente dopo le 11 puntate precedenti e di avvio di questo progetto, appunto, come vi ho detto, di cercare di concretizzare e portare ad una, tra virgolette, fase 2 anche il nostro impegno. Discussione senza contraddizione, senza contraddittorio, come le migliori discussioni di quel leader sovranista di cui non faremo nome. Ok. Allora, io avevo in mente delle cose che si rifacevano a quello che dicevo all'inizio, ovvero cosa poter fare, e la mia risposta, sempre comunque, che ho maturato negli anni, è sempre, ma che ormai sembra quasi scontata, ma è effettivamente mettersi in gioco per primi, iniziare a cambiare le proprie abitudini d'acquisto, soprattutto perché tante cose ruotano intorno al denaro e il nostro potere d'acquisto, in realtà, anche se sembra nulla, fa, ed è lì un terreno su cui possiamo giocarcela. E iniziare a fare quel discorso che diceva, molto concreto, che diceva anche Virginia, quindi se dobbiamo prendere della musica, ok, cerchiamo magari di farlo, adesso prendo sempre quest'ambito, ma può essere fatto in tutte le cose, cioè cerchiamo di acquistarlo da produttori indipendenti, cerchiamo di, se nelle nostre cerchie strette ma anche allargate vediamo episodi o non so, commenti razzisti, di farlo notare, cioè cerchiamo di iniziare a farci portavoce noi in primis dei valori che diciamo di voler combattere, perché sennò altrimenti diventa una retorica anche un po', dopo un po', che rompe le palle, cioè senza starli poi a fare i perfettini in tutto, chiaramente, però cercando di muoversi in quella direzione, perché è in quella direzione che vorremmo che andassero le cose, andasse il mondo. E tu, Virgi, vuoi aggiungere qualcosa? Ma no, io aggiungo semplicemente che se c'è una cosa che ho imparato dagli ultimi fatti, soprattutto quelli che riguardano le persone nere, è che la prima cosa da fare è istruirsi noi, autoformazione, senza dover chiedere ad altri di formarci, perché dopo un po' rompi anche i coglioni alle persone a cui chiedi. Mm-hmm. Quindi l'autoformazione è il primo passo per poi arrivare a un confronto. Però prima di tutto, cioè quando c'è un argomento che si solleva e che vedi che è così potente a livello popolare, la prima cosa da fare è informarti, cioè leggere, capire, cercare di arrivare a fondo di questo argomento per conto tuo, Dopodiché il passo successivo è il confronto, però in questo momento poi in particolare nei confronti dei nostri amici non bianchi evitiamo di rompergli i coglioni e cerchiamo di non pretendere da loro in questo momento che già avranno i coglioni girati per mille motivi, è un momento di sofferenza, è un momento intenso, cerchiamo di noi di fare quel pezzo del lavoro, ecco. Mm-hmm. Aggiungo un'altra cosa che mi è venuta in mente, anzi altre due. Una cosa è darsi anche, secondo me, poi è una riflessione aperta in realtà, darsi anche il tempo proprio come comunità, sia all'interno delle nostre comunità più ristrette, la cerchia d'amici per intenderci, sia nelle comunità più grosse di cui facciamo parte, di assimilare e fare propri certi concetti per arrivare a quello che dicevo prima, ovvero avere una comunità allargata, una società che abbia effettivamente un senso critico, cioè quindi cercare di rendere accessibili, secondo me è qua il lavoro di traduzione che tu dicevi, Virgi, certi concetti è molto importante per dare la possibilità a tutte e tutti di informarsi e dare il tempo perché questo succeda senza dire no, tu non sai questo, non sai quest'altro. A volte manca anche quel tempo di dare alle altre persone la possibilità di informarsi ed educarsi senza demonizzarle subito e dirgli subito ah ma come questa cosa qua non la sapevi, ah ma come, e qua riporto un fatto che mi è successo di recente di essere stato criticato perché immediatamente non ho postato il quadrato nero su Instagram per aderire per supportare, ma il supporto lì, cioè il mio supporto è aiutare a organizzare, non so, riunioni della rete migranti, aiutare io stesso migranti o persone non bianche nei loro problemi personali, cercare di supportare certe cause, cioè è più importante introiettare, avere dentro di sé quello che non manifestarlo, poi manifestarlo pubblicamente tramite social network, soprattutto all'interno di un discorso dei social network che è sempre che privilegia sempre, diciamo, la performance e la superficialità, cioè e la fruizione veloce. Quello che io volevo fare, cioè quello su cui volevo mettere l'accento, era proprio darci anche del tempo per costruire questa comunità critica che educa e si autoeduca. Quindi questo secondo me è molto importante per non demonizzare a vicenda e per non incappare nel ah ma tu non sei un cazzo, ma tu non sai niente. Non sapere è ok, cioè non sapere le cose va bene, cioè adesso in questi giorni c'è molto la polemica legata alla statua di Indro Montanelli eccetera eccetera, ma neanche io fino a 2 anni fa o l'anno scorso, insomma, quando c'è stata... non ne so niente, che polemica è? Dai, Virginia, che ci abiti pure a 200 metri dal parco. Comunque, no... Abito dentro la statua. No, neanche io sapevo che Indro Montanelli fosse uno schiavista pedofilo prima dell'azione di Non Una di Meno. Quindi darci del tempo per capire certe cose nel profondo, secondo me, è fondamentale sempre per non avere quello scollamento tra chi sa le cose e ha una certa visione critica, più critica, adesso chi sa le cose sembra di elevare troppo, però diciamo chi ha una visione molto critica e chi invece non l'ha mai avuta perché non ha avuto occasione nemmeno di avere accesso a certe informazioni, un po' anche per come funziona il sistema di informazione e scolastico italiano, che da un lato informa in maniera superficiale e gossipara. Io c'ho sempre questa critica che porto avanti da qualche anno sul fare gossip dell'informazione italiana, che non è fare informazione ma appunto fare gossip, e dall'altro una scuola che non ti educa certamente ad avere uno spirito critico e ad essere e a darti gli strumenti perché tu possa comprendere certe cose, ma semplicemente a ficcarti in testa dei concetti, e che è la differenza fra educare nel senso di exducere, quindi tirare fuori delle potenzialità dalle persone con cui noi abbiamo questo rapporto appunto di educazione, didattico, e insegnare nel senso porsi come unica fonte della sapienza e inculcarla dentro, quindi mettere dentro. Quindi questo qua è un po' la cosa che volevo dire. L'altra cosa che volevo dire, oltre a darci del tempo per crescere proprio come comunità critica, quindi questo lo stendo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, diamoci del tempo per crescere come comunità, perché altrimenti creeremo sempre una diseguaglianza e dei meccanismi di potere tra chi sa e chi non sa. Cioè, invece dare gli strumenti a tutta la comunità affinché sia forte e introietti dentro di sé in maniera radicale certi concetti, secondo me è fondamentale. Quindi questo volevo fare un appello a tutti i miei amici che lavorano nel campo culturale, tutte le mie amiche che lavorano nel campo culturale: diamo, rendiamo accessibili delle informazioni, diamo anche del tempo perché si sviluppi una coscienza critica. Quando saremo così forti, e il percorso sarà lungo, ma va bene così, perché le rivoluzioni non si fanno da un giorno all'altro. Quando avremo questa forza, riusciremo poi a diventare la critica dominante, quindi far passare il nostro modo di vedere le cose come modo maggioritario e non sempre starci a raccontare all'interno dei nostri circoli di intellettuali o finti intellettuali. Più che altro, del tempo e anche della pazienza. Io penso che una cosa che ci vizia molto in senso negativo è la modalità di discussione che noi mettiamo in atto sui social network e che a volte influenza anche la nostra modalità di discutere nella vita quotidiana, che è una modalità di discussione molto performativa e molto affermativa, che lascia poco spazio invece alle domande, ai dubbi, e quando c'è qualcuno che ha una verità in mano, ha quella verità in mano e la porta avanti fino alla fine. Cioè, io raramente mi metto a litigare, insomma, diciamo, con persone su internet, ma quando succede, perché è una regola che mi sono data, prima lo facevo molto di più, ma quando succede è difficile che io discutendo su un social network con tutti i limiti che questa discussione può avere, riesca a muovere di un millimetro l'opinione di una persona che non la pensa come me. Quindi da una parte è una perdita di tempo, e dall'altra parte assimilare questo tipo di modalità di discussione è pericoloso, perché poi rischi di portartela dietro anche quando discuti in altre sedi. Cioè, dover per forza, è come se fossero le battaglie tra MC, no? Chi ha la barra più forte, chi la chiude meglio, chi riceve più applausi dal pubblico, o chi semplicemente ha la voce più alta, o ha il carattere che gli permette, il carattere e la condizione psicologica che gli permette di alzare la voce più in alto. E questa è una cosa da cui, secondo me, tutta la realtà di movimento di cui facciamo parte dovrebbe cercare di liberarsi un attimo, perché dovrebbe essere innanzitutto uno spazio sicuro per il nostro benessere psicologico, questo, e quando non lo è, rischia di diventare pericoloso, perché allontana le persone anziché avvicinarle. Quindi la prima cosa è assicurarsi di avere anche noi, anche quando la nostra opinione è forte, anche quando vediamo qualcuno, sentiamo qualcuno che ha un'opinione che è in contrasto con la nostra, con cui non andiamo d'accordo, ma di porci sempre in maniera interrogativa e mai affermativa, perché questa maniera, diciamo, mascolina, io uso il termine mascolina, ma non per dire maschile, ma per dire testosteronica, di discutere, mascia e orso, è quella che... c'è dei nipoti piccoli. È quella che ci può... allontana, può cambiare, insomma, anche il modo in cui noi discutiamo internamente tra di noi, ecco. Virgi, dico proprio l'ultima cosa e poi incredibilmente mettiamo l'ultimo pezzo e riusciamo a essere puntuali con gli amici di Napoli, che ogni volta, diciamo, a cui ogni volta rubiamo dei pezzi, quindi sarò molto breve. L'altra cosa che non avevo detto prima, che mi era venuta in mente, ricordiamoci che le battaglie per i diritti poi spesso sono interlacciate tra loro, quindi cioè se ci fomentiamo molto per una battaglia che ci sta molto a cuore perché ci tocca in primis, giustissimo, e lì avremo molta più profondità di discussione, che sia l'ambiente, il razzismo o l'orientamento sessuale, benissimo, però ricordiamoci che tutte queste battaglie hanno una matrice in comune, cioè il rispetto per ciò che ci circonda e per chi ci circonda va poi a coprire tutte queste battaglie, quindi il cercare di rispettare l'altro individuo, ciò che abbiamo attorno, e sentirlo parte di un, cioè sentirci parte di tutti dello stesso ecosistema umano e non, per me è fondamentale. Quindi io inviterei anche e mi auto invito anche a non combattere strenuamente solo per cose che ci toccano in primis, ma allargare la nostra visione sistemica anche ad altri comportamenti nostri magari o di chi ci sta attorno, che non sono magari direttamente diciamo in contrapposizione con qualcosa che ci colpisce in primis, ma che colpisce delle sensibilità che discrimina qualcuno o l'ambiente in maniera diciamo violenta. E io inviterei a iniziare a aver rispetto anche per queste cose, quindi cercare di avere una visione che includa tutto, che sia inclusiva, che sia il più ampia possibile, perché poi la matrice delle battaglie è sempre diciamo la stessa e si basa molto su dei valori umani di rispetto per noi stessi in primis e per ciò che abbiamo attorno, per ciò che abbiamo attorno. Quindi questo qua è il mio invito. E se tu non hai altro da dire, Virgi, io chiuderei qua, manderei la sigla finale, manderei Sala che ci ricorda che dobbiamo andare a lavorare, a lavorare, ma a non lavorare. Ma basta con Sala. Di tornare a lavorare. A lavorare. L'ho messo adesso mentre tu non senti. E... No, mentre io ti dicevo di non metterlo, l'hai messo giustamente. Esatto. Non sto continuando. Meno male che abbiamo appena detto di discutere, di ridiscutere in maniera, ma guarda, grazie. Dai Virgi, salutaci, saluta me, saluta tutti e tutte. Ciao Fred, ciao tutte, ciao a tutti, ciao a tutti. E ci vediamo, vi lasciamo i nostri amici di Napoli, che non so se sono gli studenti autonomi o comunque quarantella live. Grande, vabbè. Forza Napoli, lasciamo in generale forza Napoli, la più forte del campionato. Ci vediamo settimana prossima, ciao. Ho bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Se ci sarò, se ci sarai, saremo come gli occhi tuoi. La musica altera i toni e forte in alto brillerà. C'è un'era, luce e colore. Piano, ho bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Questa la dedico a Federico Aldovisi. Io non ci sarai, la nebbia fitta scenderà, la pioggia spianerà. Piano, ho bisogno di tornare a lavorare.